potrai salvare anche con la fantasia. Ogni viaggiatore cerca un mondo nuovo dove fare casa sua. Spesso cambia la realtà, come fra l'Amazzonia e il Pakistan, ma è sempre l'uomo a scegliere la verità. Io voglio viaggiare, forse per capire, e nel tempo crescere, anche per sapere cosa può pensare chi non è uguale a me. Cosa abbiamo dentro noi che rende il dialogo difficile? Quanta vita è già passata, mi domando, quanta vita ancora c'è? Nella mia borsa da viaggio c'è un grandissimo disordine, ma forse questo è un vantaggio, così io posso perdere fra le mie cose il peggio e nascondere la nostalgia tirando fuori ricordi di allegria. Dentro questa borsa tutto si nasconde, niente che si butta via. Ho lasciato il cuore libero nel mare e non trovo casa mia. Spesso la malinconia mi porta ancora ad abitare là, nella terra dei cavalli ricchi di virtù che più nessuno ha. Nella mia borsa da viaggio c'è un grandissimo disordine, ma forse questo è un vantaggio, così io posso perdere fra le mie cose il peggio ed aprire le cerniere per tirare fuori coraggio dal grandissimo disordine di questa borsa da viaggio che non è pesante più di me. Oh, che cosa potrei dirti? Quanta vita c'è, perché mi piace il vantaggio del grandissimo disordine di questa borsa da viaggio che non è pesante più di me.